sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi il tema è integrazione. New York ormai da diversi anni è un po', lo è sempre stata, ma insomma da diversi anni è il polo di riferimento principale per i musicisti non solo americani ma anche internazionali, un po' anche per la posizione geografica che riesce ad essere utilizzabile sia per il continente americano che per l'Europa. Quindi molti sono i musicisti che si sono trasferiti in quella città, non solo dagli Stati Uniti, ma naturalmente, come anche tradizione, da un po' da tutte le parti del mondo. Direi che il pretesto è quello di un lavoro uscito alcuni mesi fa da parte di un sassofonista, un giovane sassofonista si può dire, che è sicuramente tra i musicisti più come dire, acclamati, più applauditi anche da parte della critica. Si tratta di Miguel Zenón, musicista portoricano che appunto ha pubblicato un lavoro, probabilmente il lavoro più ambizioso da parte sua, che ormai ha già all'attivo 5-6 dischi come leader e una infinità di partecipazioni in gruppi diversi. Il tema di questo lavoro è dedicato appunto alla identità si intitola Identities and Changeable. In pratica prende in esame quello che è un po' anche la fatica dell'integrazione culturale, ma la vede anche da un punto di vista ottimistico, insomma, come un'integrazione che però non rinuncia alla propria radice. Zenón è portoricano, sono diversi anni che si è trasferito a New York, ha lavorato facendo un po' tutta la gavetta, diciamo, di serie A. Ho cominciato con la Aether Orchestra, palestra per un'infinità di musicisti straordinari, poi anche la Mingus Dynasty, oltre che la Liberation Music Orchestra di Charlie Haden. E quindi in pratica una lunga attività come sideman, come musicista di sezione, per poi approdare a vari gruppi, il gruppo di Charlie Haden, ma molti altri. E questa sua, anche Steve Coleman per esempio, non è da dimenticare, perché anche questo è un capitolo importante. E, ecco, il suo linguaggio risente sicuramente di quella che è come dire, l'inflessione della musica latina, però non è che ne venga condizionato, non è una memoria, non è neanche un tentativo di incontro come poteva essere stato quello di Dizzy Gillespie già a suo tempo. Quindi la musica latina, l'incontro col jazz e la musica latina ha una storia molto lunga, ma è proprio una sorta di ricerca di linguaggio misto che mette insieme le due culture senza rinunciare né all'una né all'altra. Credo che questa chiave di lettura sia, direi, più recente rispetto alle sperimentazioni che venivano fatte in passato dei punti di incontro tra il jazz e altre musiche. È proprio un discorso di integrazione culturale che genera però qualcosa di nuovo. Ascoltiamo adesso un paio di brani, perlomeno una parte, di questa sorta di suite in parte parlata, in parte naturalmente suonata, con una formazione anche abbastanza larga, una formazione quasi di piccola orchestra, dove musicisti sono poi diversi, da Chris Cheek al baritono, o a Zamir Zarifa al tenore, ma Will Benson al sax contralto, vabbè, e molti altri, compreso per esempio al pianoforte Luis Perdomo, che è anche lui è uno dei collaboratori frequenti, ma anche uno dei pianisti più interessanti delle ultime generazioni. Ascoltiamo questa due movimenti di questa suite Identities and the Changeable. Thank you. US, I wouldn't see myself living anywhere else besides here. I feel like my home is here, yeah. Just because I haven't spent, you know, as much time. I never really spent more than, a week and a half, 2 weeks in Puerto Rico at a time, you know. Yeah, so I would definitely say my home is here. You know, being born a Puerto Rican, but being raised in New York, I call home New York, New York. Thank you. Questo era l'ultimo lavoro di Miguel Zenón, Identities and Changeable, dedicato appunto alla necessità e anche positività, opportunità, diciamo, dell'integrazione di culture diverse che riescono poi a svilupparsi attraverso un linguaggio che diventa nuovo. Peraltro questo è alla base anche della nascita del jazz e anche delle qualità che questo è riuscito a esprimere nella storia della musica del Novecento. Il altro musicista che ascoltiamo è Rudresh Mentappa, quindi tutto altro territorio, si passa dall'area latina, diciamo, del Centro America all'India. Rudresh Mentappa ormai fa parte della seconda generazione, è trapiantato negli Stati Uniti praticamente dalla nascita, anche se risente molto della cultura di appartenenza. Quindi diciamo che la musica indiana è tutto quello che è stato anche ed è l'importanza della cultura indiana, lo interessa e gli dà l'opportunità appunto di cercare linguaggi diversi. Direi che negli ultimi anni ha sottolineato maggiormente questo aspetto della sua ricerca, di forme. Un punto di incontro, secondo me, ben riuscito, l'ultimo lavoro uscito negli ultimi giorni, proprio molto recente, per l'etichetta ACT, con la quale peraltro ormai negli ultimi anni sta incidendo tutti i suoi ultimi lavori. E, appunto, sono musiche, intitolato questo disco Bird's Calls, ed è dedicato al bebop e alle musiche di Charlie Parker. Quindi un punto di incontro che ricerca una sintesi tra la cultura indiana, una cultura ritmica molto ricca e molto, molto potente, e quella appunto del bebop. E, la formazione è una formazione di lusso, si può dire, molto bravo Adam O'Farrell alla tromba, tra l'altro al pianoforte Matt Mitchell, uno dei talenti emergenti più importanti sulla scena internazionale, un basso solido come François Moutain e alla batteria Rudy Royston. Quindi una formazione di alto livello per una musica che richiede anche prestazioni di alto livello, anche per la velocità, per l'intensità, la tensione che sviluppano. Ascoltiamo due brani appunto ispirati quantomeno alle composizioni di Charlie Parker. We'll be right back. Questo era Rudresh Mantappa con il suo gruppo nell'ultimo lavoro uscito per la Act Music, Bird Calls. Disco dedicato interamente alle suggestioni del bebop e delle musiche di Charlie Parker. Quindi questo punto di incontro tra il bebop e l'India viene sviluppato in questo modo da Mantappa, spostandoci a un'altra zona, un'altra radice culturale, Tigran Aimashan, che è un più giovane probabilmente dei tre che presentiamo oggi, è pianista che si è rivelato uno dei talenti più interessanti negli ultimi 4-5 anni, ha già alla sua attivo diverse pubblicazioni e si è trasferito abbastanza recentemente, diciamo negli ultimi tempi, a New York, proprio perché, come dire, si va a ribadire la centralità di questa area e la possibilità quindi anche di sviluppare le proprie musiche, le proprie intenzioni musicali. L'ultimo lavoro, che è uscito qualche mese fa per l'etichetta Verve, e anche in questo caso lo vede guidare una formazione abbastanza allargata, con due contrabbassi, le voci, c'è una parte d'archi importante, quindi con violino e violoncello, e ecco, con un risultato artistico direi interessante. Tigran è già praticamente dagli esordi che cerca di riproporre, rivedere in chiave jazzistica quella che è la tradizione armena. I brani, ascoltiamo adesso un paio di brani che sono, il primo è una nenia, una filastrocca, una sorta di ninna nanna della tradizione armena, e il secondo è un lavoro più composto, un lavoro diciamo anche centrale per questo disco che si intitola Shadow Theater, ed è un lavoro, un brano in due movimenti che ascoltiamo entrambi, intitolato Collapse e Alternative Universe. Thank you. Questo era Tigran con un ultimo lavoro uscito qualche mese fa, Shadow Theater, con, abbiamo ascoltato anche nella formazione il sax di Ben Wendell, altro personaggio giovane, sassofonista interessante, canadese, interessante dell'ultima generazione, e poi Chris Tordini al contrabbasso, Nat Wood alla batteria, e poi alla voce è Irene Abedjan, con anche la voce naturalmente di Tigran Amasyan. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi di questi tre musicisti che ricercano integrazioni rispetto alla loro cultura nell'incontro col jazz. L'ultimo ascolto, e vi ricordo che potete trovare le indicazioni discografiche e riascoltare la trasmissione nel nostro sito radiocittafugico.it, la sezione playlist. Questo è tutto, salve, alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Sal Peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.